Il fatto di occuparsi di Théâtre des Chardins non vuol dire fare del teiardismo, quindi trasformare in un idolo questo personaggio, ma vuol dire comprendere la sua visione del mondo, che era una visione dinamica e soprattutto basata su delle chiavi di lettura e non dei sistemi di valore. Quindi non delle regole fisse, rigide, legulee, ma degli strumenti per interpretare il mondo che c'è intorno a noi. Questo per darvi un po' un quadro. Siccome noi ogni 15 giorni ci troviamo per commentare Théâtre, questo sabato coincideva con l'iniziativa della tenda dell'incontro. Allora, d'accordo con Andrea Lebra, abbiamo deciso di fare l'attività insieme. D'accordo con lui, con Angelo Fracchia, abbiamo pensato a qualche argomento che si possa un po' intersecare. Io farò un discorso iniziale un po' diverso da quello che farà lui. Abbiamo concordato che ci possiamo intersecare quando è il momento, quando abbiamo qualcosa da dire, e niente, quindi io comincerei con questa idea di religione. Ecco, il cristianesimo, come presentare il cristianesimo oggi, ma quando si parla di cristianesimo in maniera generale, il pensiero del nostro interlocutore corre alla parola religione. A me piacerebbe dire con Théâtre des Chardins che Cristo, Gesù, il Cristo è reale, è una realtà. E quindi come realtà ci può dare una speranza di futuro, perché Gesù il Cristo è profezia, è profezia di un futuro, è profezia di un compimento. Allora si può dire che i seguaci di Gesù il Cristo, che vanno sotto il nome di cristiani e che come assemblea di cristiani formano un movimento che viene detto cristianesimo, non appartengono a una religione. È importante, secondo Théâtre, ma leggiamo qualcosina, è importante ricordare che il cristianesimo non è una religione. Perché non è una religione? Perché io sono la via, la verità e la vita. È una realtà completamente diversa. Non è un sistema di valori, non è un bozzolo compiuto, ma è una via, è un percorso. Nessuno più di Théâtre, permettetemi la parola, può essere cristiano, perché Théâtre ha introdotto l'idea, il concetto del divenire, il concetto evolutivo della trasformazione di ognuno di noi. Si capisce, perché se il cristianesimo segue la via che è Gesù il Cristo, non può stare fermo. Perché io non guardo la via. Sapete le indicazioni, via tai dei tali, però. No, io la percorro la via, la seguo, dunque mi sposto, quindi mi trasformo, perché le esperienze muovendomi lungo la via sono inimmaginate e sono sorprendenti. Questo deve avere dei riverberi dentro di me e deve trasformare la mia visione del mondo. La visione del mondo ovviamente presuppone delle chiavi di lettura dinamiche, perché se la chiave di lettura non è dinamica, poco per volta si trasforma in un sistema di valori, il sistema di valori in una rigidità, dunque in una ritualità, dunque in una tirannia. La ritualità, la tirannia per carità, non salva nemmeno il tiranno, ma la ritualità non salva, la ritualità accompagna. È l'interiorità che si trasforma, che si mette nelle condizioni di essere salvata. E chi salva davvero? Beh, lo sappiamo tutti molto bene, è Gesù il Cristo. La via, la verità e soprattutto la vita. Dico questo perché mi rifaccio a quello che lui mi aveva consigliato, il capitolo 10 di Matteo, dove si dice non preoccupatevi se vi perseguitano, il versetto 23, dico bene? Sì. Ecco, quello. Non preoccupatevi se vi perseguitano o se vi mettono sotto giudizio, perché vi verrà suggerito quello che dovete dire. Ma perché vi verrà suggerito? Perché voi in quel momento siete attraversati dallo Spirito. È lo Spirito che vive in voi, è lo Spirito che parla. Non preoccupatevi cosa dovete dire, le parole vengono. Allora, come dicevo a lui prima, questo versetto del Vangelo mi fa venire in mente una frase di Picasso che diceva «Io non faccio arte perché in realtà è l'arte che vive in me e mi fa fare delle cose». Ecco, capite che la nostra interiorità, se è aperta al flusso dello Spirito, diventa trasparente a una realtà incommensurabile che si è rivelata e che davvero ci attira verso una salvezza che è la trasformazione per accedere a un mondo ulteriore, a un mondo che è più grande della nostra piccola terra. Vi ricordo a questo proposito che l'universo conosciuto, o almeno quello che riusciamo a vedere più che a conoscere, è soltanto il 4%, 5 forse, di tutto l'universo intero. Ecco. Posso che si possa parlare di interezza dell'universo, che non sia infinito, chi lo sa. Però noi viviamo all'interno di un 4% di quella che deve essere la realtà vera. Tenete conto che il 4% all'interno del quale noi viviamo è costituito da milioni di galassie. Le galassie sono costituite ognuna da miliardi di stelle. Faceva tenerezza ascoltare questo salmo che parlava della luna, del sole, e finiva lì. La visione cosmologica, ovviamente bisogna tener conto del tempo e del significato simbolico che ci trasmette questo salmo, ma la realtà cosmologica oggi è assolutamente enorme. Dunque non è pensabile che la vita biologica che viene dalla terra, che si sviluppa dalla materia, sia l'orizzonte definitivo di tutto. Non preoccupatevi delle parole da dire, perché è lo Spirito che vive in voi. Non preoccupatevi allora della vostra vita terrestre, perché è un tramite per l'espressione di una realtà più grande, di una realtà più grande nei confronti della quale voi avete gli strumenti per relazionarvi. perché giunti alla consapevolezza, gli uomini che veramente agiscono la consapevolezza, che veramente agiscono le loro qualità biologiche inedite per diventare consapevoli, ecco, questi uomini sono in grado di innescare un meccanismo di personalizzazione, di spiritualizzazione che li apre a quella via, la via che è Gesù il Cristo. Io leggo soltanto più un brevissimo pezzettino di Teilhard e poi cedo la parola. Allora, Teilhard dice che l'evento religioso è un fenomeno biologico. Allora, smitizziamo le religioni. Le religioni sono un fenomeno biologico, dunque assolutamente naturale. L'evento religioso è un fenomeno biologico direttamente legato alla crescente liberazione dell'energia psichica terrestre. La sua curva non è dunque individuale o nazionale o razziale, ma è umana. Teilhard qui è molto chiaro e molto moderno, parla di energia psichica terrestre. Oh, l'energia da dove ci arriva? Dal sole, non dal petrolio, ci arriva dal sole. L'energia solare fa sì che sulla Terra si sviluppi la vita. La vita è un flusso di energia e di informazione molto grezzo, e la vita a sua volta è molto grezza, parte dai batteri, parte dalle alghe, arriva alle foreste e agli animali più evoluti. Ma l'energia biologica riesce per evoluzione nel tempo a svilupparsi e a diventare psichica, perché passa una soglia. Tenete conto che l'energia psichica apre un universo, perché il passaggio di soglia dalla coscienza primaria, che è quella che si coagula negli animali più evoluti, sapete, come amo dire, gli scimpanzé o i lupi sono animali razionali, hanno un modo di interpretare la realtà. Ma l'uomo ha fatto questo passaggio in più, è diventato consapevole grazie alla sua coscienza riflessa, per cui lui si vede specchiato nell'altro. Nella relazione con l'altro io mi identifico, io mi capisco e capisco di più l'altro. Dunque l'energia psichica terrestre si esprime in consapevolezza, ma la consapevolezza non è niente altro che un fenomeno che è maturato dalla complessificazione della materia. La religione, l'evento religioso, è un fenomeno biologico direttamente legato alla crescente liberazione dell'energia psichica. Difatti, la sua presenza è umana. La religione, come la scienza o la civilizzazione, ha, se così si può dire, un'ontogenesi, un'origine che è coestensiva alla stessa storia dell'umanità. Quando si passa questa soglia di consapevolezza, poco per volta comincia a comparire questo fenomeno religioso. Sapete che gli animali muoiono, cadono lì e poi trovate gli scheletri nella prateria. Era un animale. Ma se muore un uomo, fosse pure di 50 o di 70.000 anni fa, voi non lo trovate nella prateria, voi lo trovate dentro una sepoltura. perché l'uomo è diverso da un animale. E la morte di un uomo non è un fatto così indifferente. La morte di un uomo è un fatto significativo e dunque richiede un lutto. La vera religione, intendiamo con questo termine la forma religiosa in cui sfocerà un giorno il generale andare a tentoni dell'azione riflessiva terrestre, è caratterizzata dunque, come ogni altra realtà di ordine planetario, di essere un insieme in via di sviluppo. I suoi inizi devono potersi seguire risalendo fino all'origine dei tempi. Ciò significa che a un momento qualunque della durata umana, una volta soprattutto superato il periodo embrionale dell'umanità, una corrente privilegiata di pensiero ha dovuto e deve ancora rappresentare la fibra vivente che porta in sé, a uno stadio più o meno visibile, la fede nella quale sboccerà definitivamente l'avvenire. Queste sono le premesse. Ma che cos'è la fede nella quale sboccerà definitivamente l'avvenire? Io non ve lo so dire così bene come ve lo sa dire Angelo. Provo a dare voce più che altro a un Vangelo. La suddivisione che ci siamo proposti anche con Chiara per domani è stata quella magari meno naturale di partire da Matteo e proseguire con Marco. La logica cronologica avrebbe potuto suggerire altro, ma di fatto noi ci muoviamo dentro ad un mondo, anche quello biblico, che non è tanto conseguenziale, ma che dà voce a istanze e a realtà che possono benissimo essere compresenti. Matteo è il tipico esempio. E anche della risposta, della reazione alla possibilità di irrigidirsi in rituali e in formule. Quindi questo rischio che Teilhard vedeva nel mondo anche nostro, inevitabile, è umana questa tendenza e questo rischio. Piccola premessa, oggi, a differenza di quello che spesso faccio, gioco a carta scoperta, nel senso che vi dico già in che direzione arrivo. E vi dico anche perché mi concentrerò non sul discorso missionario, che poteva sembrare più ovvio, per vivere, annunciare, testimoniare il Vangelo, ma sul discorso più fondamentale che troviamo nel Vangelo di Matteo. Minima premessa, Matteo scrive questo Vangelo dopo che Marco lo ha già scritto e almeno 35 anni dopo, 35-40 anni dopo le vicende di Gesù, almeno. Tanto tempo così, poteva benissimo decidere di fare un'opera aggiornata sul tempo nel quale l'ha scritta. E invece lui, come almeno gli altri sinottici, ma in fondo anche Giovanni, scelgono di fare un'opera d'altro tipo, apparentemente archeologica. Cioè apparentemente presentano il messaggio di Gesù. Dovrei metterci un asterisco, non è il messaggio, è altro, ma ci arriviamo, come avrebbe potuto essere presentato poco dopo la risurrezione. Tutti gli evangelisti recuperano, meno Giovanni, il titolo di figlio dell'uomo, che la Chiesa non utilizza. Tutti gli evangelisti, persino Giovanni, rifiutano di utilizzare formule, riflessioni su Gesù che Paolo aveva già usato, quindi 30-40 anni prima della stesura dei Vangeli. Erano già patrimonio ecclesiale. Perché non lo fanno? Perché l'intenzione è di ritornare alla percezione degli inizi. Ma a questo punto perché se ne scrivono quattro? Perché in realtà quella percezione non toglie che il mondo sia cambiato e che i lettori del Vangelo si trovino comunque di fronte a situazioni nuove. Ed ecco che per Matteo la tensione è ancora più straniante ed estrema, si trova a fare un'opera che vuole avere delle caratteristiche archeologiche, ma rispondendo ai problemi suoi contemporanei, quando sono già passati una quarantina d'anni. Vuole fare un'opera che risponda a problemi, peraltro, che riguardano soprattutto una comunità cristiana legatissima al mondo ebraico, che viene dal mondo ebraico e che quindi da una parte guarda molto indietro, guarda le tradizioni ebraiche, mosaiche, guarda ad uno stile di vita religiosa che si concentra su norme, su riti e che rischia di essere non archeologica nell'impressione, ma veramente archeologica nella sua vita interiore, rischia in un contesto storico che è diverso, in cui la frattura con il mondo ebraico ha iniziato ad essere chiara, in cui, lo troviamo attestato nel Vangelo, i cristiani hanno cominciato ad essere espulsi dalle sinagoghe e quindi devono prendere atto del fatto di non essere più semplicemente ebrei. È un passaggio complicatissimo che avrebbe potuto essere risolto in modo facile, ma superficiale, dicendo abbandonatevi alle spalle il passato e guardiamo il mondo nuovo che abbiamo davanti, e che invece Matteo sceglie di vivere senza rinunciare a quel mondo passato, facendo i conti con una frattura che si sta portando avanti, dicendo ai suoi cristiani che avrebbero potuto benissimo dire volgiamoci a un cristianesimo di tipo paolino in cui il rapporto con il mondo ebraico ormai è superato, sarebbe stata una scelta facile. E invece no, Matteo invita i suoi cristiani a mantenere quella continuità e il discorso diventa estremamente più complicato. Perché continuità cosa vuol dire? Rinunciare al nuovo di Gesù? Assolutamente no. Vuol dire rinnegare quel passato? No. Vuol dire rinnegare le nuove tensioni che ci sono e che ci portano in un'altra direzione? Neanche. Eccolo che il discorso diventa decisamente complesso. E Matteo che cosa fa? Ad un primo livello superficiale, non, no, superficiale, diciamo ad un primo livello immediato, che non è superficiale perché non si muove solo in superficie, presenta Gesù come il nuovo Mosè. Lo fa con modalità che sono anche in superficie. Tutti riconoscono che Matteo struttura un Gesù che parla tanto, che insegna tanto e che annuncia tante cose, non è scontato, il Vangelo di Marco non è così. E queste cose sono raccolte in cinque discorsi. Qualunque ebreo di fronte alla ricorrenza del numero 5 avrebbe pensato al Pentateuco. Il fatto che i cinque siano discorsi di Gesù, che in fondo si presenta come un nuovo legislatore, rafforza l'impressione. Gesù è il nuovo Mosè, che dice insieme la novità, nuovo, e il legame al passato, Mosè. È una tensione più complessa da tenere insieme, più stimolante però anche. Dentro a questo, in realtà, non ci si limita al vago rimando, il 5, rimando al Pentateuco, serve come suggerimento, serve come indicazione, un po' come, visto che lo fa anche Matteo, si fa nascere Gesù a Betlemme, che serve a dire guarda che si pone in continuità con le attese messianiche, coglile. Non è il Messia perché è nato a Betlemme, ma il fatto che sia nato a Betlemme ti dovrebbe suggerire che potrebbe essere il Messia. Cogliene dentro poi la sua vita le conferme di quello che io ti suggerisco quasi come indizio, indizio esteriore, ma che non si limita ad una dimensione superficiale. I cinque discorsi hanno lo stesso valore. È un'indicazione esteriore che sostanzialmente stimola il lettore del Vangelo, l'ascoltatore del Vangelo, a dire non sarà davvero così che Gesù compie quell'attesa di legge che c'era nel discorso mosaico in un modo nuovo, dove il nuovo non cancella il passato, perché è uno dei discorsi che ritornano. E allora, se l'accenno al capitolo 10 avrebbe potuto essere quello risolutivo, il capitolo 10 è il secondo grande discorso di Gesù, è quello missionario, per cui mi sarebbe potuto sembrare più immediatamente utile. E alcune indicazioni utili ci sono, ma ne riprenderò poi solo una. In realtà, rileggendo Matteo, si scopre che il discorso più fondamentale, quello che è all'inizio, non a caso, ed è lo stile, ben trovati, ed è lo stile normale della scrittura semitica antica, le cose più importanti sono all'inizio e non alla fine. Questa è una nostra anche modalità culturale particolare, che tendiamo a cogliere alla fine il discorso fondamentale. Siamo noi. L'antichità scriveva in un modo diverso, va bene, basta saperlo, è un'altra modalità espressiva, però effettivamente in quel discorso d'inizio che fonda la Chiesa troviamo anche il fondamento di tutto ciò che è annuncio, testimonianza e vita del Vangelo. E in cosa si concentra? Cerco di non essere lungo. Si concentra in una lunghissima parte, che non è quella da cui parte Matteo, per cui poi dovrò dare più attenzione ad altro, in una ripresa delle leggi, ma correggendole, integrandole o modificandole, che da una parte ci pare dire che quelle leggi non valgano quindi più, se tu le devi correggere, ma nello stesso tempo si riparte da quel riferimento lì. E la correzione va normalmente nella direzione di una comprensione più profonda, più intima, non tanto dell'esteriorità della legge, ma di ciò che la legge intendeva dire. Eccolo, il recupero in profondità del senso della legge, dell'orientamento. Avete inteso che fu detto non uccidere. Chi uccide sia portato davanti al sinedrio. Ma io vi dico, anche chi offende il fratello sia portato davanti al sinedrio. Non è necessario arrivare alla eliminazione della vita per negare la vita che si ha davanti. Ed è una ripresa più in profondità di una legge che non si contesta, ma semmai si rafforza, dandole più profondità di contenuto, adeguata meglio ad un contesto migliore. Avete inteso che fu detto non giurare per l'altare, ma per l'offerta che c'è sull'altare, ma io vi dico non giurate proprio. Qual era il senso della distinzione del giuramento? Di cogliere che ci possono essere parole mie affidabili e altre no. E Matteo dice il senso del giuramento è alcune delle parole che dico mi impegno perché siano affidabili. Risposta, che tutte le siano. Che non ci sia più distinzione, che non ci sia più motivo di vedere quando io parlo autenticamente e quando no. Un'altra discussione di quel tipo riguarderà il divorzio e ci conduce già un po' meglio nella direzione verso cui saremo portati da Matteo. La correzione del divorzio, che c'è anche negli altri evangelisti, almeno in Luca in modo netto, va nella direzione del salvaguardare in quel legame la promessa di vita che in quel legame c'è, per entrambi. Togliendo la distinzione tra una parte forte e una debole, mettendo entrambi alla pari e mettendo entrambi di fronte ad una promessa, impegno, che è promessa di vita dell'altro. Non è semplicemente un contratto esteriore, è una promessa di vita che non può essere contestata senza negare il riconoscimento alla vita altrui. Ecco che ci avviciniamo, ma io adesso dedico una parte un po' più ampia alle beatitudini, che sono quelle che iniziano questo lungo discorso, e un paio poi di altri accenni che farò velocemente, in modo da poter probabilmente cogliere una linea guida anche in questo sviluppo di Matteo. Le beatitudini sono messe all'inizio del discorso fondamentale, fondante della Chiesa. Come dicevo, è la modalità che gli antichi utilizzano per evidenziare il tema. Metto all'inizio ciò che è più fondamentale. Quindi non possiamo trascurarle come una fantasia secondaria. No, sono il cuore di interpretazione del discorso. Sono la parte più fondamentale. E cosa vi si dice? Anche qua non vado nel dettaglio, evito di annoiarvi sul perché arrivo alle conclusioni. Matteo, fidatevi, se no poi lo riprendo e lo spiego. Matteo prende queste beatitudini da altre fonti, come Luca, ma a differenza di Luca le riscrive, le amplia. È Matteo a lavorarci, non è Luca. Luca le riporta probabilmente come la trovate, Matteo no. Perché Matteo le sposta all'inizio, sono più fondamentali, e dà loro più spazio. Tra l'altro togliendo, ed è curioso perché di solito è Luca che attenua i problemi e ci presenta un Gesù più conciliante, togliendo i guai che in Luca accompagnano le beatitudini. È Matteo a farlo, non lo fa quasi mai, di scendere così a concilio con il desiderio umano. Qui sì, perché siamo più in profondità, più al fondamento. Beati i poveri. Beato non è un bravo, buono. Non è un sarai premiato, anche se poi lo spostamento verso il futuro c'è nelle beatitudini. Beato è un bene così. Sei dalla parte giusta. E questa parte giusta, in un discorso fondamentale per la relazione con Dio, non può che essere la parte di Dio. Le beatitudini non dicono fai queste cose buone così poi avrai il premio. Le beatitudini dicono: se tu ti metti da quella parte lì, sei dalla parte di Dio. I poveri sono dalla parte di Dio. Perché Dio è nemico della ricchezza, ecco che Matteo interviene dicendo in spirito. Conta non la ricchezza, conta lo spirito che c'è dentro, la profondità che c'è. Che cos'ha il povero? Sa di non bastare a se stesso, sa di non poter essere autosufficiente. Chi sa che la propria vita non dipende da sé è beato, perché ha capito, perché è dalla parte giusta. Noi oggi diremmo della storia, Matteo è molto più presuntuoso, non si limita alla storia, è dalla parte giusta, è dalla parte divina. Beato chi si sente bisognoso, incapace di badare da solo a se stesso, consapevole che la sua vita non dipenda solo da lui. Beati gli afflitti, no scusatemi, allora non corro, perché di essi è il regno dei cieli e sarà una forma che tornerà. Il regno dei cieli è una formula molto ebraica, peraltro, perché Matteo fa moltissimo l'ebreo. Il Vangelo di Matteo, se noi togliessimo allusioni e citazioni dell'Antico Testamento, viene ridotto ad un quarto, forse meno. È zeppo di questo. E usa anche formule. Cosa vuol dire regno di? Beh, regno di è la realtà che si esprime appieno come voluta da. Il regno di Erode è il mondo come Erode lo vuole. Il regno di Dio è il mondo come Dio lo vuole. E perché non dice di Dio? Perché è molto ebraico cercare di evitare di parlare di Dio. Usare altre formule per evitare di citare Dio per noi. Non è una proibizione assoluta, ma è praticamente vissuta come se lo fosse dal mondo ebraico sempre. Dio per nome non si cita. Anzi, è meglio non chiamare neanche Dio, lo si definisca Signore. È una questione di rispetto, di evitare di invocarlo invano. Meglio non invocarlo allora, alludere a Lui. Il nome, l'Altissimo, il Signore, l'Onnipotente, tutte formule che servono a evitare di chiamare Dio. È un vezzo linguistico per tanti aspetti, un vezzo religioso, culturale, che Matteo fa suo. I cieli sono il mondo di Dio, il regno dei cieli è il regno di Dio, ma non lo chiamo per nome. Fa eco ebraico persino in aspetti che non sono necessariamente profondamente ebraici. Dei poveri è il regno di Dio, perché Dio è così. E che Dio si senta povero ci può suonare strano, ma è la grande scoperta di tutta la rivelazione biblica. Un Dio che da solo non sa stare e cerca la relazione con l'uomo. E questa è povertà. È Dio stesso a riconoscersi bisognoso della relazione, in profondità. E quello, da Genesi in poi, dice anche la verità dell'uomo, che guarda in sé e dice: in effetti è vero, da soli non viviamo. La dimensione relazionale è una dimensione profonda, nostra, vitale, anche di Dio, infatti. E vuol dire che non è qualcosa che passerà, resterà nostra, sempre. E quanto più diamo voce a questa, tanto più ragioniamo come Dio, viviamo come Dio, ci avviciniamo a Dio. Beati gli afflitti. Brutto. Vabbè, i poveri in spirito tanto quanto, ma gli afflitti perché? Perché bisogna star male? Vedi che c'è questo desiderio del male che continua del male subito che continua a percorrere il cristianesimo, perché saranno consolati. Non subito. Chi è afflitto? Chi sente di aver bisogno? Permettetemi solo un accenno velocissimo, perché sennò dovrei ampliare troppo per spiegare tutto, ma l'accenno è quello al chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ma vedi che bisogna soffrire. Cos'è la croce? È quella sofferenza che non è amata, ma di cui non posso fare a meno, a cui non posso fuggire se non negando me stesso. È la situazione di vita, è la malattia che mi tocca direttamente, che non posso togliermi. Ma nel caso di Gesù, oltretutto, la fuga dalla croce sarebbe stata possibile. Cos'è che rende la croce impossibile da fuggire? Il fatto che se si fugge si nega se stessi. Si nega il proprio rapporto di testimonianza e di dono di sé per gli altri. Gesù poteva scappare dal Getsemani e l'umanità avrebbe pensato che Dio si dà all'uomo sì finché non costa troppo. E a quel punto è rimasto. C'è una sofferenza croce che non è semplicemente quella che mi becco addosso e non posso schivare. Se mi ammalo non è che posso dire vabbè non la voglio la malattia, ce l'ho. Ma c'è una sofferenza che è data dal non chiudere gli occhi di fronte a chi si è accanto. E a quella sì che potrei sfuggire, che devo decidere di prendere o no. Anche Gesù è stato tentato dal chiudere gli occhi e andarsene. Ha deciso di non farlo, perché avrebbe negato se stesso e avrebbe negato il proprio servizio agli altri. Avrebbe negato la relazione con gli altri e allora l'ha assunta, l'ha accolta. Eccola la croce da prendere ogni giorno. E in questo il Vangelo è spietato e schietto. Se tu tieni gli occhi aperti all'umanità e vuoi vivere in sintonia, in dono di te con l'umanità, guarda che la sofferenza ci sarà ogni giorno. Perché l'afflizione c'è, perché viviamo in una storia che il male ce l'ha dentro. E allora c'è un modo per non essere afflitti. Essere fortunati e chiudere gli occhi al mondo intorno. Ma non è la via cristiana, non è la via per vivere l'umanità piena. Non è il fatto dovreste essere generosi, no. Il discorso cristiano è se tu vuoi vivere la tua vita autentica, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E se non doni, vivrai peggio. Ma se doni e ti apri all'umanità che è intorno, farai tu la sofferenza dell'umanità che c'è intorno, sarai afflitta, ma sarai consolato. Perché il discorso biblico è schietto, spietato, ma sempre ottimista. Il bene avrà la meglio. L'umanità cresce. Beati i miti, quelli che non si prendono le cose, quelli che sono fatti da parte, perché erediteranno la terra. Quello che ad un altro livello di uguaglianza con Dio, Adamo aveva tentato di rubare, è ciò che è promesso all'umanità. Il punto è che non può essere preso, può essere ricevuto. Quella dimensione, di nuovo, io continuo, lo sapete, a rimbalzare tra l'esistenziale e il biblico, perché penso che parlino della stessa cosa. La dimensione relazionale, di rapporti profondi, belli, di affetto, dimensione che è nostra. Cosa possiamo fare per averlo? No, possiamo fare molto per curarlo, ma non esiste neanche una relazione nella nostra vita che in ultimo non ci sia stata regalata. Che possiamo decidere di accogliere, curare, custodire o no, ma nessuno di noi se la costruisce. Sono un dono. Non puoi impossessarti di una relazione. È violenza e nega ciò che stai desiderando. Puoi solo accoglierla. Eccolo il mite, che non si prende nulla del mondo, ma lo erediterà. Lo avrà in regalo, perché è l'unica modalità con cui possiamo vivere questa dimensione profonda. Beate chi hanno fame, quelli che hanno fame e sete di giustizia, che non è punire. La giustizia nel mondo biblico sono le relazioni corrette. È giusto chi si pone davanti a Dio riconoscendo di aver ricevuto e di aver bisogno. È giusto chi si mette davanti ad un affamato e dice ti do da mangiare. Ma non sei tenuto, la legge non prevede che tu gli dia da mangiare, la legge no. Ma il diritto è un conto, la giustizia è un'altra. La giustizia è quella, io ho cibo, tu no, è giusto che te lo condivida. Ebbene, chi ha fame e sete di giustizia sarà saziato. La vedrà, ne fruirà. È molto ottimista tutto ciò. Sta dicendo che guardate che l'umanità migliore che volete costruire ci sarà. Arriverà in dono in gran parte, ma ci sarà. Beati quelli che hanno il cuore grande, misericordiosi, che perdonano, che donano, che si impietosiscono perché vivranno da pietà, perché otterranno misericordia. Beati i puri nel cuore. C'è una purità che non è, ma poi la nostra tradizione ha reso tutto, ha letto tutto in chiave solo sessuale, va bene, ma è una riduzione. C'è molto di più. Il nostro mondo, ad esempio, è un mondo che è abituato a leggere tutto in chiave economica. Anche quella è un'impurità. E tutti noi lo sappiamo, noi viviamo relazioni che sono le più belle, le più autentiche, in cui la dimensione di potere economico o di soddisfazione personale è insignificante. Non che non c'è, ma è sbagliata la domanda. Non importa se ci sia o no. C'è altro. C'è la comunione di cuori. E questa purità in profondità di chi vede gli altri, e sempre di più mi avvicino, vede gli altri come persone con cui entrare in relazione, vedranno Dio. Perché Dio è quello. Perché Dio è relazione pura. E chi vede le relazioni pure, chi vede il mondo e gli altri con occhi puri, vede già Dio. Già ora, eh? Beati quelli che costruiscono la pace, che fanno pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Figlio di è un altro ebraismo, per dire davvero quella roba lì. I figli della malvagità è gente malvagia nell'intimo. Figli di Dio vuol dire Dio. Saranno chiamati Dio perché Dio fa quello. Beati perseguitati per causa della giustizia, di nuovo quella. Quindi non solo la vuoi vedere, ma addirittura la persegui e per quello ti perseguitano. Di nuovo, il regno dei cieli è già loro, adesso. Sono già nel mondo di Dio, perché anche Dio viene perseguitato per causa della giustizia. Di fatto le beatitudini, il fatto che si ritorni dal regno dei cieli, dove si era partiti, sarebbero chiuse qua. L'ultima è un po' un'applicazione alla comunità che si è davanti. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, diranno ogni cosa contro di voi, tante cose malvagie contro di voi mentendo per causa mia, gioite, perché hanno perseguitato anche i profeti, ma è quasi un'aggiunta. Cosa c'è allora dentro a queste beatitudini? Non c'è un discorso legale. C'è una dimensione di lettura del mondo e soprattutto della dimensione relazionale. Lo sguardo è sugli altri, sulla relazione con gli altri. Lo sguardo non è sul essere perfetto. C'è la giustizia, c'è la misericordia. Cioè, la dimensione è quella, è di relazione. E quando si guardi indietro all'Antico Testamento con questa attenzione, verrebbe da dire, Matteo lo dice ai suoi che conoscono l'Antico Testamento bene, sì, va bene, hanno anche tante norme, tante regole, meno di quelle che ci sembri, ma vabbè. Ma in ultimo c'è la relazione. C'è un Dio che dall'inizio alla fine vuole restare, entrare e mantenersi in relazione con l'uomo. Sempre. Dall'inizio, e non lo percorro tutto l'Antico Testamento, però faccio notare un particolare, giusto per dire che non me le sto inventando le cose. Quando, e prendiamo una pagina che la tradizione, soprattutto cristiana, ma non solo cristiana, ha letto in modo pessimista e cattivo, Genesi 3. Quello che noi diciamo il peccato originale, in cui Dio scaccia dal paradiso l'uomo che è colpevole di avergli disubbidito. Beh, io faccio presente che se voi andate a leggere Genesi 3, Dio parla anche di maledizione, mai contro Eva e contro Adamo. Si guarda bene dal maledirli, che a loro prospetta in realtà un mondo, anche qua faccio veloce, che non è ingenuo, ma che è positivo, ottimista. Prendo solo una delle tre parole ad Adamo ed Eva. Col sudore della tua fronte tirerai fuori il pane dalla terra, ti darà spine, cardi. Sì, però tutte le tradizioni umane, se dopo averci sudato sangue dalla terra tiro fuori il pane, ho vinto io. Cioè, va bene. Se ci mangio, va bene averci sudato. Ma che problema c'è? Quindi sembra cattivo e pessimista, in realtà non lo è, ma quando li manda fuori dal paradiso ingenuo, dove tutto è bello, tutto è buono, visto che loro si sentono in imbarazzo, perché sono imbarazzo, perché sono nudi, li veste con pelli da animale, che ha preso da animali, che Dio ha preso da animali, che quindi ha ucciso. E c'era un comando che anche agli animali Dio aveva dato, di non uccidere. Cioè per venire incontro al disagio e non al rischio di morte dei suoi amati uomo e donna, viola la propria legge. Cioè perde la dignità Dio per entrare in relazione con, restare in relazione con gli uomini. Lui perde la dignità. Ora, ritorno a Matteo e vedo di avviarmi verso una chiusura. Il grande discorso, quindi, di apertura del Vangelo è un discorso che guarda indietro, però cogliendo in quello sguardo indietro, non... anche qua, scusate, allungo un pochino, ma per fare... Abbiamo una bella struttura in campagna, solida, antica, ci stiamo dentro. Ci sono, semplificando molto, tre modalità di gestirla. Una è trasformarla in un museo. Non tocchiamo niente, consolidiamo il minimo indispensabile e veneriamo coloro che sono passati qua dentro. È bello, è rispettoso, però è morto. Se noi come tenda dell'incontro ci trovassimo tutte le domeniche dell'incontro a leggere insieme qualche scritto di Don Giorgis, mostreremmo grandissimo rispetto nei suoi confronti, però penso che anche lui non ne sarebbe contento. E ho capito, quello era pensato per quel contesto, va bene, continua ad essere prezioso, interessante, bello, ma fate altro. Su quella linea, ma fate altro. Un'altra modalità è quella di radere al suolo, utilizziamo la cubatura e facciamo una cosa nuova. È la modalità più economica, lo sappiamo. Più facile, veloce, economica, che perde completamente il rapporto con il passato, che non esiste più. C'è la modalità più complessa, infatti cosa, che dice usiamola. Adattiamola a delle esigenze che magari sono in parte cambiate. Valorizziamo ciò che c'era del passato che può continuare ad essere utile. Quell'ambiente era cappella, resti cappella. La strutturiamo in modo che sia meglio fruibile per noi oggi. È il discorso più complesso, quello che con il passato dialoga, ma cogliendo che il passato non è morto, che può continuare a parlarci ed esserci utile. È il discorso che fa Matteo. Guarda indietro, sì, e dice: non sono venuto ad abolire la legge, fa dire a Gesù, ma a compierla. Non passerà neanche un segnetto della legge, uno iota, quelli che non si pronunciavano neanche. E però nello stesso tempo fa una cosa nuova, perché non si limita a ripetere la legge. Coglie di questa legge l'obiettivo che aveva di far entrare le persone in relazione, in comunione, tra di loro e con Dio. Quasi come se curi la relazione tra le persone, sei dalla parte di Dio, sei già con Dio, lo vedi già, non devi fare una cosa in più, ci sei già dentro. È quello che Matteo prova a fare, ossia, senza negare il passato, cogliendo che le sfide possono essere diverse e che quell'orientamento, in qualche modo, che mi chiede di adattarmi a dei contesti nuovi, può veramente esprimersi come qualcosa che viene da dentro, dal dentro della logica della legge vecchia. Ecco perché Matteo può dire: avete inteso che vi fu detto, ma io vi dico, e insieme non sono venuto ad abolire, ma a portare a compimento. Ma no, l'hai appena corretta. Sì, ho corretto la forma, l'esteriore, ma ho dato piena espressione a ciò che c'era dentro, al contenuto. E questo contenuto va moltissimo in direzione della relazione, intanto tra gli uomini. Chi ha fame e sete di giustizia, non della giustizia che viene da Dio, per dire, ma non potevi precisare che però la giustizia è divina? No, basta la giustizia. Chi ha fame e sete di relazioni piene è già con Dio. Perché Dio non fa una cosa diversa? Perché Dio si muove lì, sempre, in queste relazioni. E allora, dicevo, le ultime due allusioni. Una sì la prendo dal discorso missionario, che però era meno utile, perché sì, invita ad essere essenziali, a fidarsi, ad affidarsi alla provvidenza, belle cose, ma il contenuto dov'è? Il contenuto l'ha già detto prima, perché non c'è una missione che si aggiunge alla vita. È semplicemente un'espressione in più di quello che già c'era nella vita. Vivi e già annunci. Che in fondo è ciò che più propriamente cogliamo nella nostra esistenza. Devo ricordarmi anche di custodire le mie relazioni. Ma no, ma vivi. E poi ci sono lì dentro. Dentro a quell'invito alla fiducia e a quell'invito giustamente evidenziato del lo Spirito Santo vi dirà cosa dire, e in attraerà e uscirà da dentro di voi come dinamica dentro la quale siete. C'è un accenno che è originale di Matteo. Quando vi perseguiteranno in una città, andate in un'altra. Cioè non stare ad insistere dove questa dimensione non può essere espressa, non può essere condivisa. Vai in un'altra. Vi dico, non avrete finito le città di Israele prima che venga il Figlio dell'Uomo. Che da una parte può voler dire, oh, c'è mica tanto tempo, io sto per tornare, quindi non preoccupatevi che non fate in tempo a finire. Ma dall'altra vuole anche dire, quel Figlio dell'Uomo, l'umanità piena che Gesù testimonia, si farà presente mentre voi vi preoccupate di annunciarla, di testimoniarla. E uscirà da voi, la riconoscerete dentro a voi. E l'ultimo testo che cito è di per sé dentro di un discorso terzo che è molto detto delle parabole, è molto nella direzione del fidatevi, state sereni, fidatevi. Non preoccupatevi di aver tutto in mano, non preoccupatevi di aver tutto sotto controllo. Il mondo procede, troviamo la parabola del seminatore, la parabola del chicco di senape, del lievito. Com'è che il lievito? Deve agire il lievito, non preoccuparti, il lievito agisce. Pensa a metterselo dentro, poi fa lui. Lì in mezzo c'è una parabola che è solo di Matteo e che non sembrerebbe del tutto matteana. Matteo ha questa impostazione ebraica, quindi più di legge, di controllo. Presenta Gesù come un legislatore, anche duro, anche se poi i contenuti non sono tutta questa durezza. E la parabola è Regno dei Cieli, di nuovo, Dio che si esprime pienamente, assomiglia a un uomo che semina un seme buono nel suo campo. Poi, di notte, viene un nemico e ci butta la zizzania. Allora i servi dicono, togliamola, lascia che entriamo a toglierla, l'erbaccia che si mescola con il seme buono. E il padrone dice, no, rischiate di togliere anche il seme buono. Lasciate che vada, lasciate che procedano. Poi, quando verrà il momento della mietitura, faremo il vaglio, e l'erba inutile se ne andrà. Da un punto di vista agricolo non è un gran consiglio. Non funziona proprio così. Ma appunto, le parabole non vogliono essere dei trattati di agronomia. Non vogliono dirci come portare avanti i campi. Ma cosa fa Dio? Cosa fa Dio? Lascia che il mondo proceda. Lascia che le ispirazioni, le tensioni, le tendenze che ci sono dentro si esprimano a pieno, perché quello spirito porterà a pieno compimento ciò che ha dentro e perché Dio è profondamente ottimista sul mondo, è convinto che quella zizzania non consumerà il grano buono e che possono benissimo convivere perché il grano buono non sarà soffocato, non morirà. Uno sguardo sempre estremamente positivo e ottimista su quello che l'umanità avrà da esprimere. E qui io rilancio e ributto la palla, perché mi pare che, penso di non mancare di rispetto nel dire che se Teilhard de Chardin si muove così bene in sintonia con Matteo, non ne facciamo una lode a Matteo, ma è merito di Teilhard che ha saputo ascoltare, ha saputo lui sintonizzarsi con il Vangelo, ma mi pare che ci sia profonda questa impressione che nella umanità piena, autentica, c'è uno spirito che da essa emerge, perché è lo spirito divino che c'è già dentro, che porterà l'umanità a soluzioni anche nuove, perché Matteo prospetta delle soluzioni nuove mentre dice non passa neanche uno iota della legge. Dice sono venuto a compierla e non ad abolirla, e la ristruttura, la cambia, e la cambia però nella direzione, in una direzione, convinto che sia lo spirito più autentico della legge. E questa direzione è innanzitutto la umanizzazione, la relazione, che anche qua io distingo, ma non sono due cose diverse. Siamo pienamente noi stessi, pienamente umani, quando siamo pienamente in relazione. E la relazione ci rende, se è sana, pienamente noi stessi. E il discorso cristiano, il discorso biblico va in quella direzione. Che ne abbiamo fatto noi nella nostra tradizione cristiana? Non c'è poi molto nella Bibbia che presenti un Dio che vuole essere onorato, servito, venerato. C'è un Dio che si mette a servizio. E si mette a servizio di un'umanità che intanto cresca nella relazione. Con sé, non con Dio, con l'umanità. E lì c'è Dio, e lì emerge Dio, e recuperiamo il cuore dell'incarnazione, che non dobbiamo scegliere tra servire Dio e l'umanità, perché in Gesù non si danno distinzioni, e se scegli di servire autenticamente l'umanità, servi Dio, e se servi Dio non puoi che servire l'umanità, se i due servizi sono autentici. Io però ripasso la palla, perché forse ce n'è. Grazie, grazie. Sì, alcune cose si possono dire. Io direi che questa lettura che abbiamo sentito è straordinaria dal punto di vista di Teilhard, perché è una lettura di consapevolezza. Se fino ad allora, con la vecchia legge, questo uomo primitivo, perché stiamo parlando di 1500, 2000, forse 3000 anni prima di Cristo, mi pare che il calendario ebraico parli di 5400 a oggi. A oggi, ecco, sì. Non siamo nel 2023, ma nel 5000. 1800, sì, qualcosa del genere. Quindi veramente una legge data a degli uomini che erano ancora in piena età neolitica, che è un'età primitiva. Quindi questi poveretti con questo cervellino poco sviluppato, beh, buona grazia che avessero delle regole da seguire e da non violare per riuscire a portare avanti una convivenza. Ma il tempo passa, la cerebralizzazione cresce e soprattutto il divenire della società umana fa sì che gli uomini poco per volta riescano a vedere più largo e più profondo. Viene il tempo, i tempi erano maturi perché si smettesse di seguire pedestremente delle regole, ma finalmente ci si rendesse conto che cosa significavano quelle regole. Cioè si finalmente dalla superficie, Teilhard la chiama l'energia tangenziale, che ti sfiora soltanto e poi tu applichi, ecco, dalla superficie si passasse finalmente all'interno e si facesse emergere quell'energia che Teilhard sempre chiama radiale, cioè l'autenticità, come dire, l'unicità della persona irradiasse in cerca di relazione. Ecco, allora questo è un modo completamente diverso di porsi nei confronti di tutta quella che è stata la storia biblica, come abbiamo sentito, e di quello che è l'annuncio evangelico. Perché appunto si tratta di accorgersi di che cosa veramente vuol dire il messaggio, di che cosa veramente vogliono dire le parole che il Signore ha lasciato agli uomini. Inizia veramente un'epoca nuova. Se la consapevolezza biologicamente ha iniziato ad emergere, si dice tra i 60 e i 100.000 anni fa, sicuramente con la rivelazione di Gesù il Cristo, questa consapevolezza fa un salto di maturità. La consapevolezza diventa consapevole di sé. Gli uomini con il Vangelo si rendono conto di avere a portata di mano uno strumento che non sospettavano nemmeno di possedere. Uno strumento che era loro da 100.000 anni, ma che non era mai stato agito fino in fondo. Viene un tipo strano che nasce a Betlemme e dice a questi uomini: ma vi rendete conto? Se non vi rendete conto, ma che cosa pensate di capire del mondo e della vita? Allora, io sono l'Alfa e l'Omega che compare, si svela e trasfigura il mondo da quel momento in avanti. Ma da quel momento in avanti si trasfigura la consapevolezza, e con la consapevolezza di noi stessi, degli altri e del mondo intorno a noi, si sviluppa anche la responsabilità. Perché se tu ti rendi conto, tu sei il responsabile. Allora, questi seguaci che venivano chiamati cristiani e che hanno fatto questo movimento, il cristianesimo, hanno fatto un salto e un passo che veramente è stato epocale. Da quel momento in avanti il fenomeno religioso non si appiattisce più sulle divinità, ma il fenomeno religioso si fiorisce in relazione con l'incommensurabile consapevole che cerca il contatto con noi. Perché noi siamo delle consapevolezze emergenti, perché in noi l'universo diventa consapevole di se stesso. In noi, come in tanti altri come noi, in tante altre parti dell'universo. Dobbiamo aspettarci questo momento, perché ormai la tecnica, la scienza, ci sta aprendo un universo che è assolutamente incredibile. Io sono rimasto a circa 2500 pianeti che sono nella zona di abitabilità intorno alla loro stella. Quindi le possibilità sono notevoli. Ma indubbiamente il fatto che sulla Terra sia emersa questa capacità di consapevolezza ha fatto, commuovere Dio, che addirittura, come abbiamo sentito, ha smentito se stesso pur di lasciar fiorire questa consapevolezza emergente, e ha cercato la relazione con questa consapevolezza. E quindi mi sembra indubbiamente coerente col messaggio, con il pensiero di Teilhard, proprio in questa chiave di consapevolezza. Difatti Teilhard dice che non tutte le correnti religiose in ogni momento sono equivalenti. Così come nel passato animale non tutte le specie erano destinate a emergere nell'umanità. Prima di noi c'è stato questo grosso movimento biologico che poco per volta, sviluppandosi, ha permesso che si creassero le condizioni della comparsa di noi, dell'umanità. Tra di loro, tra queste religioni che si devono in qualche maniera sviluppare, modificare, una di loro, o almeno un gruppo tra di loro, rappresenta ad ogni pagina della terra la regione in cui porsi per promuovere e subire più efficacemente i progressi della divinizzazione del mondo. Di nuovo, in coerenza con quello che si diceva prima, il mondo sviluppa la consapevolezza parallelamente una religione e delle divinità. La divinità come estrinsecazione della propria interiorità. Perché io che sono dotato di pensiero riflesso, ho bisogno di uno specchio. E lo specchio me lo costruisco, se non c'è. E lo specchio è quella divinità che mi sono ricostruita. La guardo, mi specchio in lei e lei riflette la mia immagine. Non per niente le divinità greche e tutti i miti che circondano le divinità greche sono state assunte a base della psicanalisi e della psicologia, proprio perché erano delle estrinsecazioni, erano degli specchi che riflettevano ciò che noi veramente siamo. Ma nel momento dell'arrivo di Gesù il Cristo, lo specchio si infrange perché non diventa un soliloquio, io che mi guardo e che mi vedo, ma diventa una relazione. E una relazione, a me piace la beatitudine dei miti, perché il mito lascia essere l'altro ciò che è, proprio come hai detto tu, ma non è un'indifferenza, lascia essere l'altro ciò che è perché possa donarsi. Cioè gli crea attorno uno spazio. Allora la relazione non è più lo specchiarsi, la relazione è accogliere, è aprirsi e accogliere il dono che l'incommensurabile fa nei nostri confronti. Teilhard dice in questa pagina: e noi non siamo più liberi di alterare questa condizione della religione, perché la religione è un fenomeno connaturato allo sviluppo biologico. Applichiamo però questa impossibilità di abbandonare la spinta religiosa, applichiamo ciò al nostro mondo presente. Una sola corrente religiosa, dicevamo prima, è attualmente capace di rispondere alle esigenze e alle aspirazioni del pensiero moderno. Una sola religione oggi è ad un tempo possibile e capace di svilupparsi, il cristianesimo. Non c'è alcuna esitazione possibile. È nel cristianesimo che passa la fibra cercata, dal momento che una deve esistere, la fibra religiosa. Se il cristianesimo risulta al momento il solo possibile di fatto, e perché il solo esistente di diritto, il divino di cui l'umanità non potrebbe fare a meno senza ricadere in polvere, e questo è un passaggio importante, ma lo rivediamo subito dopo. Allora, il divino di cui l'umanità non potrebbe fare a meno senza ricadere in polvere, non si troverà per noi che aderendo strettamente al movimento da cui si sprigiona progressivamente il Cristo. Se si abbandona questo percorso di relazione con Dio, l'umanità non può fare altro che cadere in polvere. Volete guardare una fotografia di quel paese? Si chiama Bakhmut, credo che questo nome sia risuonato parecchio nelle cronache. Capite che cosa vuol dire la regressione alla religione che ha benedetto quei cannoni e alla perdita di senso umano? Vuol dire macerie, vuol dire polvere, vuol dire decostruzione, vuol dire scomparsa della vita. Lì abbiamo un esempio concreto di che cosa vuol dire tornare indietro. Vi ricordo che noi siamo qui a vivere beati e pacifici perché ogni anno l'equivalente di circa 900.000 persone sono state ammazzate. Certo, perché ci sono voluti 60 milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale per avere 73 anni di pace. È un prezzo pagabile? Allora, dove stanno andando gli uomini? Che cos'è questa regressione? Il compito nostro è fare quello che abbiamo sentito prima. Gesù il Cristo che ci dà questa direzione, che ci accompagna in questo sviluppo. E in questo sviluppo, Teilhard è interessante, dice, si sprigiona progressivamente il Cristo. Cioè la nostra relazione con Lui lo fa emergere in mezzo a noi a tutto tondo, sempre più definito, sempre più chiaro e sempre portatore di una più grande speranza. Come possiamo, di conseguenza, dice Teilhard, intravedere i prossimi sviluppi della fede terrestre, probabilmente sotto forma di una lenta concentrazione della potenza di adorazione umana attorno ad un cristianesimo gradualmente pervenuto allo stadio di religione per la ricerca e per l'impegno? Ecco che siamo usciti dalla vecchia legge che dava delle regole, senza abbandonare quella base, ma passando attraverso quella base, arriviamo a una religione per la ricerca, ma per l'impegno. Dunque un'operazione di consapevolezza, come il Vangelo ci sollecita. Il primo grande avvenimento, continua Teilhard, che andrà a prodursi sarà lo scisma tra i credenti e i non credenti nel futuro dell'uomo. I non credenti, logicamente, secondo logica, secondo razionalità, persi per ogni credo, diventato senza ruolo né oggetto, e per ogni conquista diventata senza interesse né valore. I non credenti nel futuro, nella bontà dell'impegno e dello sviluppo umano. Gli altri, biologicamente sospinti ad aderire al solo organismo religioso nel quale la fede nel mondo si presenta con le due caratteristiche di coerenza infinita ai fatti e di coestensione al tempo, nel tempo, che caratterizzano le cose reali. Il mondo deve convertirsi nella sua massa, oppure perirà per necessità fisiologica, come si diceva prima. Se io non trasformo la mia legge in una dinamica che si sviluppa, che si apre nel futuro, inevitabilmente regredisco e arrivo alla polvere. E se, dunque, e se si convertirà, ciò avverrà per convergenza attorno a una religione della azione che si rivelerà gradualmente identica e conforme al cristianesimo fedelmente condotto fino al suo ultimo esito. Ecco la necessità di comprensione profonda di quello che è l'annuncio, perché svela una realtà nuova. E questo segreto svelato bisogna guardarlo, bisogna interiorizzarlo, bisogna usare la sua energia per integrarla con la nostra e trasfigurarci. Da ciò finalmente scaturisce la conclusione, dice Teilhard, che il cristianesimo nel mondo non rappresenta solo, come sembra talvolta, l'aspetto religioso di una civiltà transitoria fiorita in Occidente. Il cristianesimo è piuttosto, come l'occidentalismo stesso, un fenomeno di ampiezza universale che segna l'apparizione all'interno della categoria umana di un ordine vitale nuovo. Ecco, non per niente il calendario è stato cambiato partendo dalla nascita di Gesù, ma perché c'è stato questo cambiamento che era un ordine vitale nuovo, era uno stile di vita, un modo di porsi con la realtà completamente nuovo. Oggigiorno noi abbiamo a che fare con la tecnologia, abbiamo a che fare con le voci che sentiamo al telefono. Se voi telefonate a una qualsiasi società per un qualsiasi problema, al centralino vi risponde una voce che vi dice delle cose. E beh, quella voce è un'intelligenza artificiale, sempre di più. Non c'è una persona che vi sta dicendo delle cose, è un'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale sta diventando sempre più estesa, sempre più profonda, sempre più intelligente. Che fine farà l'umanità? Siamo in tempi di sostituzione, siamo in tempi dove la vita del silicio sostituirà la vita del carbonio. E che cosa distingue la vita del carbonio dalla vita del silicio? In fondo al telefono dicono le stesse cose. Ma chi è l'uomo? Cos'è l'umano? Io credo che questa mattina abbiamo avuto delle belle risposte da quello che tu ci hai detto. L'umano è di più. Ma quel di più lo troviamo solo nella relazione vitale con Gesù il Cristo, quello che ci è stato descritto proprio questa mattina brillantemente da te. Io vi ringrazio, io finisco qui. Grazie. Grazie. Grazie. Se tu vuoi concludere. Ma penso che materiale ne abbiamo avuto. Pazienza, ne avete mostrata tanta, bravi, grazie.